la tua tipa è una fan, conosce tutti i miei pezzi. La mia ragazza scarpe che non sai dove le prende. Sto fumando erba, non fumo Chesterfield. Pensando a fare i soldi, sognando come spenderli. Prenderli, contarli, buttarli e dopo riprenderli. Prendimi se ci riesci, sto correndo con un rally. Sto fumando erba, non fumo Chesterfield. Pensando a fare i soldi, sognando come spenderli. Prenderli, contarli, buttarli e dopo riprenderli. Prendimi se ci riesci, sto correndo con un rally. Sto fumando oggi Kush, non fumo Camel. Pensando ai soldi, sognando di riempirmi le tasche. Prenderli, contarli, buttarli e dopo riprenderli. Prendimi se puoi, sono in cielo in mezzo agli uccelli e le nuvole. Un uovo tra i pianeti, le stelle e i satelliti. Sto con la gang, siamo diversi da voi terrestri. Sto pensando a comprare una cinta Fendi, un Rolex, ma sto pensando a comprare un Bradley. Giro coi Looney Tunes, i miei amici sono lunatici. Sempre sulle droghe, non riescono a stare fermi. La tua tipa è una fan, conosce tutti i miei pezzi. La mia ragazza scarpe che non sai dove le prende. Tutto quello che ti serve so dove andare a prenderlo. Tutti questi rapper sanno dove andare a prenderlo. Tre catene senza contratto, brillo come le stelle. Sulla terra senza contatto umano, extraterrestre. Sto fumando erba, non fumo Chesterfield. Pensando a fare i soldi, sognando come spenderli. Prenderli, contarli, buttarli e dopo riprenderli. Prendimi se ci riesci, sto correndo con un rally. Sto fumando erba, non fumo Chesterfield. Pensando a fare i soldi, sognando come spenderli. Prenderli, contarli, buttarli e dopo riprenderli. Prendimi se ci riesci, sto correndo con un rally. Sto fumando erba, no erba, no erba, no erba, no erba. Sto fumando erba, no erba.